Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. In questa 27ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, uno degli insegnamenti principali, dei messaggi principali che la liturgia della parola ci consegna, è certamente riguardante l'insegnamento di Dio, ciò che Dio pensa a proposito del matrimonio, perché sia la prima lettura che la prima parte del Vangelo fanno riferimento a questo. Dico subito che se avessimo fatto questa predica 70 anni fa, quanto poteva durare? 3 minuti massimo, perché tanto era tutta acqua fresca. Oggi forse durerà 10, perché tante acque fresche purtroppo sono diventate bollenti oggi, non sono più tanto fresche. Allora, facciamo così. Facciamo una specie di testo, lo facciamo ad alta voce, no? Ecco. Allora, se uno andasse oggi a chiedere a un cattolico che cos'è il matrimonio, a un battezzato, forse qualcuno un sacramento, ecco, dopo però se andiamo a vedere quanti battezzati oggi celebrano il sacramento, qui cominciano le brutte notizie, perché le libere convivenze e i matrimoni al comune hanno da tempo superato i matrimoni in chiesa. Qui a Sermoneta ogni tanto si vedono molti abiti da spose, d'accordo? Ma vanno sotto la loggia del comune, non vengono nella cattedrale di Santa Maria, e la percentuale è di gran lunga superiore a quelli che vengono dentro la cattedrale di Santa Maria. Quindi lo sacramento oggi. Poi se uno chiedesse: bene, ma secondo te il matrimonio è indissolubile o no? Qualcuno che ha fatto un po' di formazione direbbe: forse è indissolubile, però se poi proprio non vanno proprio più d'accordo, cioè se non è che ci si può fare qualcosa, e se proprio va zampa all'aria, ma uno che deve fare? Deve rimanere scapolo a vita, che fa? Non si rifà una vita? Guardate che sono tutte quante cose dove le letture di oggi ci rispondono, no? E da che cosa dipende questa indissolubilità? Questo è un po' più difficile. Dipende dal sacramento, perché il prete, quando gli sposi si uniscono, gli mette la mano sopra e dice: non osi separare l'uomo ciò che ti unisce. Quindi, siccome c'è il sacramento, non si possono separare. Allora, andiamo a vedere che ci dice Gesù e che ci dice la prima lettura, così siamo tutti quanti d'accordo. Allora, a Gesù gli vanno a fare questa domanda, che sarebbe la stessa cosa che oggi potremmo esprimere in termini moderni. Gli dicono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Cioè, se può divorziare, detto proprio in due parole, non andiamo più d'accordo, non ce la facciamo più, è possibile che ognuno se ne vada per conto suo? E Gesù risponde, facendo riferimento all'Antico Testamento: che cosa vi ha ordinato Mosè? Lo fa apposta, lo fa. Ora dovete sapere cosa è successo. Mosè, che secondo Gesù e secondo tutta la tradizione della Chiesa, anche se qualche esegeta oggi lo dubita, però vabbè, pazienza, è l'autore del Pentateuco, aveva consentito, attenzione, per permissione come eccezione, non per diritto divino, se un uomo ripudiava la moglie, doveva scrivere un qualche cosa di scritto per in qualche modo tutelare questa donna. Lo sapete perché? Perché Mosè è vissuto nel 1300 circa avanti Cristo. Se un ometto a quei tempi ripudiava una moglie, non stavamo nel 2021 con la parità dei sessi, che adesso pure nella messa si deve dire fratelli e sorelle, perché se no ti denunciano che discrimini le donne. Nel 1300 avanti Cristo, se una donna veniva ripudiata dal marito, sapete la fine che faceva? Sì, si poteva dire dal pulpito, dove o si imparava a fare il mestiere più antico del mondo, perdonatemi la franchezza, oppure moriva di fame. Allora, per tutelare donne, diciamo così, dai soprusi del marito, Mosè ha detto: scrivi qualcosa in modo tale che se si trova qualche anima santa, qualcuno se la piglierà e la toglie dalla strada. Questo era il senso, non che fosse una cosa buona, era un intervento per evitare che una cosa già non conforme alla legge di Dio rovinasse completamente la vita di una donna. E infatti Gesù dice, loro gli rispondono: ah, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. E Gesù riprende e dice: per la durezza del vostro cuore gli scrisse questa norma. Che cosa significa? Siccome voi non eravate capaci di fare quello che Dio voleva, e che adesso ve lo spiego citando il libro della Genesi che abbiamo letto nella prima lettura, Mosè ha dovuto sopperire con una toppa ad un male più grande. Ma dall'inizio della creazione Dio rifece maschio e femmina, cita la prima lettura. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola, non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Attenzione, che qui il Signore dice alcune cose molto importanti. Alla luce di quello che Gesù ha detto, secondo voi il matrimonio è indissolubile perché si celebra un sacramento, oppure in forza di ciò che Dio ha stabilito nella creazione dell'uomo? Gesù non ha risposto a questi qui, dice: vabbè, Mosè ha consentito questa cosa, però io adesso istituirò un nuovo sacramento che è il matrimonio, e quindi il matrimonio diventerà indissolubile. Non ha detto questo. Che c'è scritto nel libro della Genesi, che viene prima del Deuteronomio, dove si trova questa eccezione alla regola, che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. Attenzione, già Gesù qui sta dicendo indirettamente che cosa? Che non esiste amore benedetto da Dio in senso stretto se non che tra maschio e femmina, d'accordo? Lo sta dicendo, maschio e femmina li creò, questi sono stati fatti per diventare una cosa sola, e una volta che diventano una cosa sola non separi l'uomo ciò che Dio unisce. Certo che dopo è arrivato anche il sacramento, ma il sacramento non fa altro che sigillare questa cosa che è già iscritta nel diritto di natura, capite? Per cui tutte quante le legislazioni che hanno legiferato sul divorzio eccetera eccetera non sono andate semplicemente contro una confessione, quindi la Chiesa crede che il matrimonio sia indissolubile, ma io sono uno Stato laico e concedo il divorzio. Il divorzio è contrario non alla disciplina sacramentale della Chiesa sul matrimonio, ma a ciò che Dio ha stabilito nell'atto stesso creativo dell'uomo, cioè al diritto si chiama naturale, non al diritto ecclesiastico o al diritto positivo. capite? Per cui le legislazioni che hanno fatto questo, si sono prese in coscienza di andare davanti a Dio, di andare contro la legge cosiddetta naturale, a cui, attenzione, in forza del diritto divino, chi governa deve essere sottomesso, perché l'autorità di chi governa è sempre sottomessa alla legge suprema di Dio, che non è la legge positiva della Chiesa, ma è quello che dipende dall'ordine della stessa creazione. Un'altra cosa ci dice Gesù, dopo dice, no? Se dopo questo sigillo dell'essere una carne sola uno ripudia la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E se lei ripudiato il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Non c'è possibilità di, capite, di fuga dinanzi a queste parole così esplicite di Gesù. Un'altra cosa implicitamente rivelata è che Dio ha creato ogni uomo per una donna. Il sigillo dell'essere una cosa sola è stabilito che da Dio, che sia realizzato da un certo uomo con una certa donna, e stop. Per questo non è soltanto peccato ciò che avviene dopo il matrimonio, cioè se si tradisce questa cosa si commette adulterio, ma anche ciò che avviene prima. Il peccato commesso dopo il matrimonio si chiama adulterio, quello commesso prima si chiama tecnicamente fornicazione. I rapporti prematrimoniali, nonostante ci sia stata la rivoluzione sessuale, oggi non ci fa più caso a nessuno, attenzione che sono peccati mortali. E una libera convivenza aggiunge al peccato di fornicazione l'aggravante del renderlo pubblico, del pubblico scandalo. Oggi queste cose non vengono percepite nella coscienza comune, perché la coscienza sociale si è completamente distaccata dalla rivelazione. Però la parola di Gesù è questa, e questa rimane, fratelli e sorelle carissimi. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché ci sarà un'altra predica domani. Gesù dice, dopo un bambino lo prende davanti, dice, a chi è come un bambino entra nel regno dei cieli. Perché un bambino? Dice, ma ti pare che io nel 21° secolo posso stare dietro a queste cose? Se fai, come dire, l'evoluto e l'adulto, no. Quindi quello che vuole pensare con la tua testa moderna, diciamo così, che ormai ha avuto tante conquiste. Se tu fai un passo indietro e ti fai piccolo e ti metti in ascolto come un bambino dinanzi alla verità rivelata da Dio, ne capirai anche la bellezza. Perché un matrimonio, io ne ho conosciuti qualcuno, quando si sposano due persone che sono vissute santamente prima del matrimonio, si sposano sinceramente per amore e rimangono fedeli, io ho visto nella mia esperienza sacerdotale delle storie meravigliose, coppie arrivate a 90 anni, innamorate come il giorno che sono messe insieme, in chiesa sedute al primo banco mano nella mano, con 5, 6, qualcuno con 10 figli, qualcuno ancora viva, io l'ho conosciuto, li chiamavo ai corsi prematrimoniali a testimoniare. Una cosa meravigliosa, perché vivono la pienezza e la bellezza anche dell'amore oblativo che si dona, l'amore sponsale, l'amore che può dire ti amo perché io non ho conosciuto nessun altro, ho conosciuto soltanto te e sono stato sempre fedele soltanto a te. Se noi proviamo a pensarci 5 minuti, togliendoci dalla testa tutto quello che ci abbiamo in quanto figli del 21° secolo, proviamo a pensare se questa non è una cosa che a pensarci mi sembra bella. Proprio bella. Io sono tua moglie, tuo marito, bene, sono stato tuo da prima che ti conoscessi, perché nessuno mi ha avuto, e sono stato sempre tuo perché dopo che ti ho conosciuto mai ti ho tradito e nessun altro ha conosciuto la totalità e la pienezza del mio amore. Pensiamoci, questo è quello che Gesù rivela, d'accordo? Sembra una cosa bella, anche se ovviamente l'ideale è alto, ma il fatto che noi siamo scesi da un punto di vista morale e di costumi molto in basso non fa scendere in basso ciò che Gesù ci propone, ci invita a rielevarci un pochino e a tornare a riappropriarci di ciò che è da sempre stato nostro, perché la Chiesa vive queste cose da 2000 anni, anche se purtroppo in questi ultimi tempi molti battezzati non riescono a essere all'altezza di questo, perché sono andati appresso alle rivoluzioni e ai cambiamenti di tempi. Però il Vangelo, come sappiamo, rimane sempre lo stesso. Siamo lodati Gesù e Maria.